Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena. E dopo questa pausa estiva, benvenuti in un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Di nuovo qui dagli studi di Radio Città Fucico, Flavia, Stefano e Peppe. Oggi parleremo di ecomafia in ambito della rassegna settimanale di Radio Città Fucico, dal titolo Braccia rubate. Giusto, braccia rubate all'agricoltura, le tue per esempio, Ste. Erano le frequenze, ma vabbè, continuiamo. Comunque, cosa vuol dire ecomafia? Ecomafia è un neologismo coniato dall'ambiente che indica quei settori in cui la criminalità organizzata opera in ambito ambientale, tipo lo smaltimento dei rifiuti, gli appalti, la costruzione di edifici abusivi, ma anche il traffico di animali esotici, per esempio, o l'archeomafia. Io non avevo idea dell'esistenza di una cosa del genere. Comunque, vabbè, ma mica è mafia questa, ragazzi, cioè. Ma sì, che è mafia, è una delle economie che aumenta sempre di più nonostante ci sia la crisi. Esiste il reato di ecomafia allora? No. L'Legambiente si è battuta negli ultimi anni specialmente per l'introduzione di pene per questi reati ambientali, perché finora ci sono state soltanto sanzioni di tipo contravvenzionale e l'abbattimento degli edifici non sempre avviene con facilità. Cos'è che possiamo fare noi esattamente? Possiamo leggere il dossier di Legambiente, che è di quest'anno, che ci fornisce una panoramica generale sull'Italia e sulle ecomafie, indicando appunto in che regioni si verifica maggiormente questo fenomeno. Ste, leggeresti qualche dato proprio dal dossier, preso dal dossier? Beh, innanzitutto l'incidenza dell'edilizia illegale nel mercato delle costruzioni è passata dal 9% del 2006 al 16,9% stimato per il 2013, e quindi è raddoppiato nel giro di 4 anni più o meno. Per quanto riguarda più dettagliatamente l'Emilia-Romagna è divisa in 3 zone di influenza. Una, l'Emilia, è in mano all'Ndrangheta, la Romagna è in mano al clan dei Casalesi e Bologna non si è ancora capito esattamente a chi sia in mano. Sono rimasta di stucco vedendo come per numero di procedimenti aperti dalle procure Bologna superi Milano. Napoli. Bologna ha aperto 23 procedimenti, mentre Napoli addirittura 20. Quindi ne abbiamo 3 in più rispetto alla città. Per sfatare il mito delle mafie al nord non esistono. Infatti l'Emilia-Romagna è decima in Italia per reati di ecomafie e ha 944 persone denunciate e 410 sequestri attualmente. Quindi è comunque sia un fenomeno che anche in Emilia-Romagna, che è una regione del nord, la regione cosiddetta socialista da sempre per sempre incorrotta, è comunque sia una città, una regione in cui c'è questo fenomeno ed è molto presente. Io vi vorrei raccontare uno degli episodi più eclatanti, diciamo, nella storia delle ecomafie. Un episodio che magari è servito proprio a far nascere questa categoria è quello delle navi a perdere. Si tratta di alcune navi con cariche di scorie pericolose e radioattive che vennero fatte affondare dolosamente nel Mediterraneo, al largo delle coste calabresi. Un caso che Legambiente ancora oggi cerca di accertare, insomma, cerca di far luce su questo fatto avvenuto nel lontano 94. Quindi, cioè, dopo tutto questo tempo non si è ancora capito cosa effettivamente sia successo. Beh, adesso mi sa che è tempo l'ora di lanciare una simpatica canzone. Una canzone dell'estate, molto fresca, diciamo, dai. Peppe, cosa ci consigli? Io vi consiglio Safe and Sound e Capital Cities. Vai. Take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is bentornati ai nostri ascoltatori di Lucciole nelle Tenebre. Siamo qui in onda oggi a parlare di ecomafie, lo ricordiamo ancora una volta perché si è rimasti impauriti da quel numero così impressionante che fatturano oggi le ecomafie e le organizzazioni criminali. Ben 16,7 miliardi, ne parliamo oggi con Tiziano Granata, responsabile settore legalità di Legambiente Sicilia. Tiziano, ci sei? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno Tiziano. 16,7 miliardi è qualcosa che ci ha lasciato basiti, in quanto comunque sapevamo dei grandi numeri che le mafie appunto riuscivano a far fruttare dai loro proventi illegali. Meno che mai però potevamo aspettarci dal settore del cocomafia, un settore che, lo dicevamo prima in radio, sembra qualcosa che ormai non si canalizzi più solamente sulle regioni del sud Italia, ma che ha avuto un riflesso a livello nazionale. Tu sei stato autore del dossier appunto che Legambiente ogni anno sulle ecomafie, volevamo chiedere qualcosa in più a te. Sì, il 16,7 miliardi è una grossa cifra e questa un po' è la quantificazione in difetto del business delle ecomafie, che sta raggiungendo anche i tradizionali settori della criminalità organizzata, quali il traffico di droga e quant'altro. Quindi è un settore che è sempre in crescita e, come ripeto, il numero è molto molto in difetto, perché non si ha, appunto, essendo un settore in cui i numeri sono molto sono nascosti, non si riesce a quantificare l'effettiva cifra e quindi si fa un calcolo in difetto. È un settore in cui i rischi sono molto bassi, perché le sanzioni sono irrisorie rispetto a un traffico di droga, dove lì si rischia il carcere. Nel trafficare rifiuti non si rischia quasi nulla, al massimo una multa, tranne se non si riesce a dimostrare un vero e proprio traffico di rifiuti. E quindi è un settore che a fronte delle sanzioni molto basse, che conviene sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del rischio. Quindi un settore appunto conveniente che di solito ci viene nascosto. Sicuramente non è passato inosservato però neanche alla Direzione Nazionale Antimafia, che nell'ultima relazione quest'anno gli ha dedicato un capitolo molto corposo. Ora, quello che ci chiedevamo qui in redazione, ma anche nelle nostre riunioni di presidio quando appunto discutiamo di questi temi, era: perché se la Direzione Nazionale Antimafia riesce a individuare un reato e addirittura a classificarlo come reato di ecomafia, poi sembra quasi che se lo inventi, perché non vi è una corrispondenza rispetto alla legislazione penale italiana appunto sul reato di ecomafie? Perché dopo tanti anni ancora sembra quasi assurdo, una lotta contro i mulini a vento, parlare di ecomafie? Guarda, da 20 anni che Legambiente pubblica il rapporto ecomafia, denuncia il fenomeno ecomafia, è nata proprio un termine coniato da Legambiente. L'obiettivo del rapporto è appunto accendere ogni anno i riflettori su questo fenomeno e cercare soprattutto di far modificare la legislazione. Legislazione che non può essere modificata dai magistrati, chi sta in prima linea purtroppo, ma deve essere modificata dalla politica. La politica, nonostante le pressioni, nonostante gli si sbattono in faccia i numeri, non fa questo passo. Ha fatto un piccolo passo trasformando il traffico illecito di rifiuti come delitto, ma tutto il resto invece non è soltanto una contravvenzione, quindi non vi è questa non vi è appunto una sanzione penale. Quindi i dati ambientali sulle ecomafie non vengono appunto convertiti in delitti. Questo perché sicuramente dietro ci sono grossissimi interessi economici e, come sappiamo, la politica non è immune a, non è distante da questo. In questo settore come in tanti altri, pare. Nonostante questo non ti sei perso d'animo e qualche tempo fa hai pubblicato il prontuario degli illeciti sui rifiuti. Ce ne parli? Io ho letto che appunto è un manuale teorico pratico e mi chiedevo come potesse avere incidenza sul lavoro di operatori che, comunque, non esistendo il reato di ecomafia, riuscivano ad agire su questo fenomeno. Sì, il prontuario è nato come strumento, perché purtroppo la legislazione, soprattutto a livello di rifiuti, cambia continuamente, quindi sta creando moltissima confusione anche in chi materialmente, soprattutto le forze dell'ordine, devono applicare la normativa. E quindi ho cercato appunto con questo prontuario di semplificarla e renderla appunto facile da applicare, appunto perché il reato soprattutto nel campo dei rifiuti è un reato cosiddetto dei crimini, cosiddetto reato invisibile, diciamo, perché non sempre un comportamento, mai uno nota, si assimila come reato. Ad esempio, se io vedo una persona che sta scippando una vecchietta, mi accorgo subito che è un reato. Però se vedo un camion che sta scaricando dei fanghi su un terreno agricolo, posso immaginare che quello sia del concime. Quando invece in realtà, se io poi vado ad approfondire, magari vedo un po' meglio la situazione, mi rendo conto che effettivamente sono rifiuti tossici che vengono smaltiti illegalmente su un campo di ortaggi. Quindi c'è il problema di percezione del reato, soprattutto di conoscenza delle norme, appunto perché non è facile identificare un comportamento con un determinato illecito, e quindi il Fontana nasce appunto per semplificare un po' la vita agli operatori del settore, alle forze dell'ordine che operano sul territorio, e quindi cercare di facilitare le loro operazioni di accertamento e quindi incrementare in questa maniera anche l'attività di controllo e di sanzionamento. Tiziano, ringraziandoti per questa breve intervista, ci auguriamo quindi che tutti gli operatori del settore diano una spulciata al prontuario e che appunto sappiano destreggiarsi in questo inestricato e invisibile reato, che appunto poi tanto invisibile non è. Ce lo dicevi prima, ci hai fatto un esempio più che calzante, quello del riversare rifiuti tossici, poi magari bisogna andare a controllare bene di cosa si tratta. Grazie ancora da parte di tutta la redazione di Luce delle Tenebre e a risentirci. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao. Wasting another ringraziamo Tiziano Granata per l'intervista e Peppe per essere l'intervistatore. E torniamo al nostro argomento. Sul numero di giugno dei siciliani giovani ho trovato un articolo molto interessante scritto da Salvo Catalano, e che offre degli esempi proprio nella mia isola di ecomafie e derivati, diciamo. E descrive come, specialmente nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, Catania sia stata un laboratorio privilegiato, in quanto proprio in questa provincia ci sono stati casi eclatanti di inquinamento dell'ambiente proprio dovuto allo smaltimento illecito. Mi dicevi del percolato, ma che roba è sta? In due parole... Percolato in pratica sono i residui che da una discarica controllata teoricamente vengono raccolti per poi essere utilizzati come combustibili, fondamentalmente di riciclo, e sarebbero una risorsa molto utile, solo che però sono anche dei gravissimi inquinanti del suono del suolo e delle falde acquifere. Ecco, proprio a Bello Lampo c'è l'ipotesi di disastro ambientale causato dalla formazione di un enorme lago di percolato che ha contaminato le falde acquifere sottostanti la discarica. Ecco, ottimo. Questo è un esempio di come la bellezza del nostro territorio venga lesa da questa ecomafia. Ma non solo la bellezza, anche la salute dei cittadini, perché comunque sia tu bevi quell'acqua che proviene dalle falde acquifere e si rischiano gravi danni all'organismo causa proprio del percolato. Parlavo della provincia di Catania e di ciò che è avvenuto lì. Cosa Nostra ha trovato l'ultima frontiera nella Rifiuti S.p.A. La falsificazione di documenti per far figurare operazioni di raccolta differenziata che in realtà non sono mai avvenute. E poi si aggiunge a questo il finto riciclo. Cioè, si raggiunge una certificazione di riciclaggio pari al 70% che in realtà non avviene. L'accusa è di aver frodato i comuni, attestando appunto percentuali differenziata mai avvenute. E poi cosa facevano con questi rifiuti teoricamente differenziati? Venivano mischiati e se ne cambiava la natura e poi venivano rivenduti agli agricoltori come composti di qualità, creando quindi un danno sia ai cittadini che all'ambiente. Beh, alla fine comunque sia, come si vede, il danno che tu rechi all'ambiente poi ti si ritorce contro, è come una sorta di karma alla fin fine. Ma a parte il danno all'ambiente, che possiamo parlare genericamente di danno all'ambiente, cioè in una ditta del Messinese di 220 dipendenti, 113 sono già morti, e tutto ciò a causa dell'inalazione dell'amianto proveniente dalla produzione di Eternit. Cioè, lo sanno tutti che l'Eternit fa male. Però non abbiamo affrontato ancora un'altra faccia del problema, ovvero quella degli ecomostri. È vero, abbiamo dato dei dati, però dei casi particolari no. Madonna, esistono degli edifici veramente brutti, brutti, brutti, oltre ad essere abusivi, che creano un danno al paesaggio che va oltre quello, diciamo, dell'inquinamento. Cioè, sono proprio un danno alla vista. Io vi posso citare un caso famoso, proprio perché quest'estate finalmente ha visto la fine, che è quella dell'ecomostro sulle coste, diciamo, dell'Agrigentino a Scala dei Turchi. Non so se avete presente quella costa bianca, quella scalinata bianca, sembra il paradiso. Vabbè, la fai sempre romantica tu, la Sicilia. Vabbè, lascia perdere, è veramente un posto fantastico. E fino a giugno di quest'anno il paesaggio veniva veramente rovinato da questo edificio gigantesco, non portato a termine proprio perché Legambiente aveva chiesto il blocco dei lavori. Tuttavia, per decenni questo mostro a tutti gli effetti ha rovinato proprio quella vista. Finalmente questo giugno Legambiente ha ottenuto la demolizione dell'ecomostro più noto, diciamo, di quella provincia lì, e è stato abbattuto con grande gioia della cittadinanza e di tutti i turisti, che finalmente potranno godere della vista senza, diciamo, distogliere lo sguardo per colpa di quell'edificio orribile. Beh, siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Vi raccomandiamo di pensare verde, di pensare a quello che succede, a pensare di non sporcare i pavimenti o dove voi andate, per esempio anche Giardini Margherita, e vi lasciamo con una canzone. Le birre, le bottiglie di birra anche nelle campane. Anche in Piazza Verdi. Vi lasciamo con Green Bag di George Baker. Ciao. Ciao.